No, buongiorno, saluto anche i rappresentanti della stampa che sono presenti per questa comunicazione divulgazione anche dei risultati che abbiamo raggiunto dopo questo nostro incontro. E si tratta di una bozza che verrà presentata in sede di consiglio per l'approvazione e tiene conto della situazione attuale e di quelli che sono stati individuati come i punti salienti per la ricostruzione della pace in quest'area del Medio Oriente. Le parti concordate sono essenzialmente tre. La prima parte è relativa all'invio di un contingente di pace, Caschion, per delimitare con una linea blu la separazione tra le parti, che dove poi chiameremo le parti, sono Siria come paese e gli opponenti. Il contingente si è concordato, si è fornito dalla Lega Araba e con compiti esclusivamente di peacekeeping nel senso del capitolo 6 della Carta delle Nazioni Unite. Il contingente che agirà sotto leggi da ONU e con un mandato del Consiglio avrà il controllo operativo sulle operazioni e verrà istituito un gruppo di coordinamento con membri del Consiglio in una commissione istituita che verrà istituita in sede ONU. Il contingente dovrà tramite la commissione riferire periodicamente sia al segretario generale gli eventuali sviluppi della situazione. Il secondo punto trattato riguarda il consolidamento politico della zona, che vede due parti. Avevamo concordato 6 mesi. No, 6 mesi era comunque, dalla revisione, ma non era concordato le elezioni politiche. No, allora. Faccio la diciamo l'intervento davanti alla stampa non è molto comunque sia le parti si sono accordate e rese disponibili per un processo di mediazione anche con l'ausilio di questo consiglio e del segretario generale come mediatori, che porti a elezioni politiche nel breve periodo. Il breve periodo, che non è stato quantificato, verrà comunque rivisto a 6 mesi da oggi, quale sarà lo status quo raggiunto e quale potrà essere il tempo, la tempistica per istituire delle elezioni nel paese che tenga conto delle differenze tra le due parti. Il terzo punto trattato riguarda gli aiuti umanitari. In considerazione della situazione tragica nella quale versa il paese in questo momento, indipendentemente dalle parti geografiche che suddividono l'area, si rendono comunque necessari interventi, diciamo, di carattere umanitario estremamente immediati. E si dovranno ricostruire o ristabilire le strutture essenziali alla vita civile. E, visto la presenza di due parti nell'area, le operazioni di ricostruzione avverranno tramite l'intervento dei paesi che si sono resi disponibili e delle organizzazioni regionali anche, oltre che coordinate, un coordinamento verrà fatto anche con le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali per valutare quali siano le modalità e l'estensione degli interventi nelle varie parti della Siria. L'intervento di ricostruzione, che avrà tempi non valutabili al momento, perché non abbiamo ancora preso atto di quali siano le reali condizioni delle strutture civili nelle varie zone, e qui si renderà necessaria probabilmente un'opera di ricognizione e valutazione di quanto sia necessario e come sia necessario intervenire. La proposta è stata votata all'unanimità e ha avuto la sola astensione della Russia, la quale non ha negato la necessità di un intervento di pace in zona, ha semplicemente sollevato obiezioni di carattere politico che verranno valutate poi in altra sede. Questo è quanto è stato ottenuto dalla sede di riunione, e la proposta che verrà presentata sarà poi sottoposta a votazione in sede di consiglio. Grazie. Ci sono domande? Ce la mandi dopo. Sì. La prima domanda è, non mi è chiaro chi garantirà l'accesso umanitario. Voi avete definito una roadmap in tre tappe, non mi è chiaro come avverrà nella pratica, appunto, se c'è un corridoio, se è stato definito. Questo è un dettaglio, direi, operativo, che verrà concordato dalla commissione presso questa sede, che vede le GARP, Unione Europea e gli altri paesi interessati maggiormente a questa operazione, e le organizzazioni internazionali. Verranno stabiliti con le parti corridoi e aree di intervento e di presidio. Grazie. Ho un paio di domande anch'io sugli aspetti militari. Non vedete il pericolo che la presenza di un'operazione di peacekeeping classico con strumenti piuttosto ridotti dal punto di vista militare possa portare l'ISIS a rialzare la testa sul terreno? Sì. Non sarebbe stato meglio autorizzare un disenforcement con un mandato più robusto, come stati casi della KFOR in Kosovo, di UNP2 in Libano? Sì. Questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda gli aiuti umanitari. C'è stato un impegno specifico deciso dai paesi, dai soggetti rappresentati in questa sede ad un esborso finanziario, c'è un impegno finanziario per la ricostruzione. Chi saranno i soggetti ad operare? I governi nazionali attraverso le proprie aziende utilizzeranno i propri lavoratori in loco? E c'è il consenso sull'intervento umanitario da parte, presumo di sì, però non è stato specificato durante la sua presentazione. C'è il consenso all'intervento umanitario da parte sia del rappresentante del governo siriano, da parte del governo siriano, sia da parte dei ribelli, visto che il territorio è controllato da loro. E poi, scusi, ultimo punto, se può approfondire, può spiegarci meglio le ragioni dell'astensione russa e se non c'è il pericolo che la Russia poi in Consiglio di Sicurezza... Dito di veto. Allora, per quanto riguarda la tipologia di intervento, si è dato molto credito alle parti, le quali stanno mantenendo un controllo del territorio e quindi non abbiamo in questo momento notizie di problemi dovuti alla risorgenza ISIS, la quale in quest'area in questo momento forse è presente, perché non abbiamo certamente cancellato ogni singolo elemento di questa organizzazione, ma non ha attuato interventi ancora. Le parti sono, come ripeto, hanno il controllo delle aree e pertanto abbiamo fatto molto affidamento su quella che è la buona fede delle due parti a non aumentare il livello di tensione che attualmente è stato raggiunto e che ha portato un cessato il fuoco e al rispetto finora di questo cessato il fuoco. Per cui il Consiglio in questo momento, la proposta che verrà data al Consiglio è quella di un semplice mantenimento dell'attuale status quo, in attesa che il terzo pilastro di questa proposta, cioè la ricostruzione politica del Paese, prenda corso. Per quanto riguarda invece gli interventi umanitari, come sono stati concordati con le parti, entrambe le parti hanno chiesto di avere voce in capitolo sulla modalità e estensione degli interventi e questo è stato recepito. L'intervento dei paesi che più vorranno dare a questa ricostruzione umanitaria, concordata con le parti, ripeto, terrà conto di tutte le esigenze locali, sociali, economiche delle varie aree in cui andranno ad operare. E qui anche questo è una parte concordata con le parti. Mi chiedeva del veto russo. Il veto russo. Il veto russo che nasce da una... L'astensione. Se ho capito bene la domanda, la preoccupazione era per un eventuale veto russo in Consiglio di Sicurezza. Delle Nazioni Unite, dove questa proposta verrà... Attualmente... Anche per l'approvazione della forza. Certo. Attualmente la Russia, che ha sollevato alcune obiezioni di carattere politico su fatti che però non sono inerenti all'area geografica in particolare, perché l'intervento umanitario è ampiamente approvato anche dalla Russia, chiede di allargare il plenum delle accordi che possono essere presi, comunque sia delle trattative per risolvere un problema legato alle proprie problematiche con la Turchia. E sulla base di questo verrà iniziata un'altra fase di colloqui per appianare le eventuali divergenze e arrivare a un pieno consenso delle parti. Non pare comunque che la Russia non abbia intenzione di porre il veto a questo tipo di risoluzione. Per quanto riguarda il governo di transizione, volevo avere maggiori dettagli perché non mi è chiaro, da chi sarà composto, entro quanto tempo prevedete che si possa giungere alla creazione di un nuovo governo di transizione? Come è facile capire, la situazione non è tra le più semplici. Abbiamo il paese diviso in due, con due parti, lo Stato siriano e gli opponenti allo Stato siriano, che hanno delle divergenze che devono essere acchiarate. Abbiamo optato per una soluzione diluita nel tempo, in quanto queste divergenze sono ancora in fase di risoluzione, devono ancora essere affrontate dalle parti in un'altra sede. Questo verrà fatto comunque in ambito, spero di poterlo fare in ambito ONU. La ricostruzione politica e quindi la pacificazione non può essere un processo immediato, dovrà tenere conto dell'andamento anche della ricostruzione del paese e sensazione per ciascun siriano di essere di nuovo a casa e di poterlo considerare un paese che è casa propria. Sulla base di questo credo possiamo auspicare un processo politico che porti a un paese in pace nel prossimo futuro. La tempistica non è prevedibile. Abbiamo fissato una data di massima tra 6 mesi in cui le parti dovranno rivedersi per valutare lo status quo raggiunto e anche l'andamento delle relazioni. Non perderemo in questo momento le eventuali possibilità di iniziare delle conciliazioni tra le parti sotto l'egida ONU. Pensavo già di inviare un altro rappresentante del Consiglio, anzi il segretario. L'esperto giuridico L'esperto giuridico per un'operazione di conciliazione tra le parti, in modo da facilitare questo processo di comunicazione. Grazie. Altre domande? Direi molto bene. È stato bravo. Un ottimo esercizio, complimenti a tutti. Grazie. Molto, molto realistico sia in termini di dibattito, di discussione, sia in termini di faticoso raggiungimento di un consenso che è abbastanza è relativamente minimale rispetto agli obiettivi di risoluzione definitiva della crisi siriana. Ma se voi andate a leggervi, forse ve lo ha mandato Isabella. No, non ve l'ho mandato, ma se andate sullo statement lo trovate su internet. È lo statement dell'International Syria Support Group, che è un gruppo informale di stati che si è riunito a Vienna in una conferenza. Quello del 14 novembre? Sì, il 5 più 1. Vedete che non ci discostiamo moltissimo da quello che abbiamo, dagli esiti di questa discussione. Nel senso che, per esempio, sulla transizione politica, molti step non vengono, genericamente si stabilisce un obiettivo. Ma in realtà però, viene fissato un obiettivo. Ma l'obiettivo sì, però concretamente come si muove quell'obiettivo, tante cose devono essere ancora. Sì, però allora ad esempio fissano entro 18 mesi il varo di una nuova costituzione e elezioni. Sì, ma la Costituzione chi la scrive? Appunto, non è chiaro, cioè è abbastanza qualche modo, diciamo, molto fisico, però si fissano, stanno cercando di raggiungere un consenso per avere una roadmap chiara. Quindi questo è il secondo incontro che fanno. Una cosa interessante è che hanno chiesto al governo Giordano di stilare una lista di gruppi di oppositori, di ribelli, diciamo, per valutare effettivamente chi sono i gruppi terroristici e chi no, quindi chi si potrà sedere al tavolo dei negoziati e chi invece verrà escluso. Evidentemente l'ISIS è già escluso a priori, ovviamente. Però su questo la discussione è aperta, e questo è molto interessante, se possa sedere al tavolo dei negoziati al-Nusra, che è il gruppo di opposizione vicino ad Al-Qaeda. Questo vi fa capire come l'ISIS abbia spostato un po' l'asticella, il centro di cosa è, accettabile e di cosa non è accettabile. Pensate a una discussione del genere solo 10 anni fa, un gruppo che si ispira ad Al-Qaeda che viene invitato